24 mattino di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Tutti i giorni passava per la sua stazione, un treno di lusso, lontana destinazione. C'è stato questo incendio dei cavi elettrici dove circola la strada dei treni e adesso ci stiamo muovendo a 360 gradi. Vedremo come andranno avanti le indagini e ci occuperemo di tutto. Pensavo un treno pieno di signori, pensavo un treno pieno di signori. Non torniamo, visto rievocare parole come quelle del passato, è in atto evidentemente un tentativo di sabotaggio di alcune realtà legate alle stazioni e all'alta velocità, ma noi stiamo verificando, monitorando e indagando su ciò che è accaduto. Che urlarono vendetta, gli accecarono il cuore. Dimentico pietà, scordò la sua bontà, la bomba sua, la macchina a vapore. Chi si oppone all'alta velocità sappia che non intimidirà lo Stato italiano. Il nostro governo e il nostro paese non hanno paura, hanno democraticamente deciso di realizzare un'opera e quell'opera sarà completata. La pulsante sembrava fosse cosa viva. Appena liberato il freno, mordesse la rotaia con muscoli d'acciaio, con forza cieca di baleno, con forza cieca di baleno, con forza cieca di baleno. A Repubblica l'hanno anche intervistato Guccini, no? A dire: ma come mai ancora i treni, in questo caso l'alta velocità sotto bersaglio, e nella storia d'Italia sapete che purtroppo questo evoca subito tragedie mai dimenticate, clamorose. Oh, i treni, se la prendono con i treni, così per spezzare l'Italia in due, proprio nei giorni di Natale. E su Repubblica hanno intervistato Guccini, no? L'autore della locomotiva, straordinaria la locomotiva. Correva l'altro treno ignaro e quasi senza fretta. Siamo qui, sono le 6:32 minuti, è la vigilia di Natale, siamo in diretta 24 mattino, ancora è ultima puntata dell'anno, poi io tornerò l'8 gennaio. Lorenzo Nespoli è qui che combatte, panettone in mano, l'alpino Peter Pescapè qui che combatte, grolla nello stomaco, già da un paio d'ore, bombardini a go go. E che dire, e che ci sono due eroi che voglio salutare. Subito, non apriamolo oggi il Parlamento, è il 24 di dicembre, il Parlamento, cioè nel senso è aperto, è socchiuso alla Clerma. Paola Saluzzi, buongiorno. Ma buongiorno, buona vigilia a tutti. Ma quali eroi? Ma qui gli eroi siete voi, un anno intero trascorso in compagnia. E buon Natale. Buon Natale. Abbiamo già acceso l'albero, messo a scaldare il latte, messo a fare il caffè. E quindi si parte. No, via. Sì, infatti io l'ho scritto in maniera molto sana e vera e sincera. Io vorrei svegliarmi con un 57esimo dell'entusiasmo che ha Paola Saluzzi. Voi dovreste leggere i suoi tweet al mattino alle 5:15, 5:20. Come fa? Ma come fa? Così, insomma, siamo carichi. Ho No, l'ho ereditato per fortuna della mia mamma questo carattere. Non ho nessun tipo di merito. Comunque, buona vigilia. Buona vigilia. Saluto anche il direttorissimo Luca Dini, direttore di Vanity Fair. Buongiorno. Che ieri pregava sempre via Twitter di un'unica accortezza, e cioè di lasciarlo libero entro le 6:58, perché deve come dire, preparare. Che cosa devi preparare per la vigilia? È il mio giorno, questo è il tuo giorno, cioè tu hai fornelli. esatto. Tu hai fornelli, e cosa devi preparare? Dici non so, il piatto forte. No, sono vari. Vabbè, ma quello per cui tutti ricordano il Natale a casa Dini. Crostini. I crostini. No, cos'è, scusa? No, sono i crostini toscani, no? Sono buoni. No, perché sembrava un po' una cosa. Crostini toscani. Cioè, toscani. Non è il pancarè. È una roba fatta, tutta ricercata, fatta dal direttore di Vanity Fair con le sue mani. Parla, Saluzzi, ma stai bene? Assolutamente no. Infatti. Soprattutto mi ha fatto ridere. Dunque, da oggi li chiameremo. Cioè, privo di fantasia, ma i crostini, certo. Sono i crostini di Natale, voi capite che sono qualcosa di particolarmente speciale. E invece io non mi do alla cucina per il bene di tutti. Devo ancora fare i pacchetti di Natale. L'importante è che tu non debba fare metà della mattinata prima di andare a casa. Io ovviamente al lavoro, ma passerò la metà della mattinata, visto che partiamo molto presto, a fare pacchetti. L'importante di Natale è che tu non debba fare ancora i regali di Natale. Sono regali pensierini, devo dire. Capire, tu lavori oggi? Sei in diretta alle 3? Sì, assolutamente, in diretta. E di che parli? Di politica? Politica? Ovviamente, di politica. Ci sarà qualche politico ospite? Chi è che avrai ospite oggi? Oggi Consiglio dei Ministri. Bisogna... Bisogna parlarne, non so chi sarà il Gesù bambino che verrà a trovarci, ma... È vero, oggi alle 10 c'è un Consiglio dei Ministri anche molto molto importante sul Jobs Act. Non ne parliamo più, è caduta la linea. E perché è caduta la linea? Non sei caduta. Non mi sentivo più. Con il religioso silenzio, con amore. Sì, vabbè. Va bene, allora, no, comunque, la questione dei treni, questa è una questione... seria, più che seria anche un po' odiosa, veramente odiosa. Ieri c'era la nostra Miriam, per esempio, del centralino, che dice: devo andare in Puglia, vi prego, ci vado una volta all'anno in Puglia. E non lo so se è arrivata, perché hanno sospeso 60 treni, al di là dell'aspetto terribile, cioè dei servizi che dicono, i servizi segreti che dicono attenzione, perché non è che si fermeranno. Provano anche gusto, no? Come dire, a vedere evidentemente l'Italia a rischio di essere bloccata. Però Luca, questo ci riporta a un passato. Hai sentito che Renzi dice: non evochiamo parole del passato? No, per carità. Soprattutto su Bologna. Infatti. Devo dire, fa specie soprattutto, cioè, prendersela con uno dei pochi mezzi di locomozione puliti. Ecco. Cioè, fra l'altro, voglio dire, cioè, in un paese dove il trasporto su rotaia è stato boicottato per motivi anche molto più meschini. Mm-hmm. Francamente non capisco, ecco. Cioè, è il mezzo, come dire, se vuoi, anche più democratico, quello che prendono tutti, ed è il mezzo che arriva ovunque, no? Che fa spostare famiglie. Non lo so, Paola, qua. Ma ieri erano 30 anni dall'Italicus. Rapido 904, no? Il treno di Natale era 30 anni. Il treno di Natale, c'è stato l'Italicus, come tu giustamente ricordi, Alessandro, c'è stata, come direttore saggiamente suggerisce, mai dimenticare Bologna, e quindi questa gente evidentemente o non ha studiato la storia o non ha letto o è cretina. Proprio sono dei cretini criminali, proprio i cretini, perché sono cretini se non hanno studiato. Sì, è più la seconda, criminale. Qua poi si discute se l'accusa di terrorismo. Sono dei criminali, punto. appunto, anche dice non ci sono stati morti e volevo vedere. Ma no, ci mancherebbe. Non ci sono stati deragliamenti e ci volevo vedere, come se fosse una motivazione per dire beh, bravi, avete fatto un po' una bricconata, però in fondo siete stati bravi. Ma quando mai? No, ma tra l'altro che questi tipi di Molotov servono proprio a paralizzare, perché poi potete immaginare, paralizzare il traffico ferroviario. Ci manca solo appunto che si debba esultare perché è stata solo qualcosa di così, un qualcosa. E ripetiamo, dov'è il coraggio? Ah no, no, stai facendo saltare i ponti perché c'è la guerra di Spagna, stai facendo saltare i ponti perché c'è la resistenza e dobbiamo far avanzare gli americani, diciamo così, quella è guerra. Ma dopodiché il coraggio dove sta? No, questi qui che stamattina stanno facendo colazione, ma si sentono coraggiosi? Comincia sempre per C, ma non possiamo dire cosa. Lo puoi dire anche se è la vigilia di Natale. Non capisco anche questo dividersi sulla questione è terrorismo, non è terrorismo. Queste sono questioni di procure, no, Luca? Per carità, questo cambia le eventuali pene nei confronti di quelli che vengono beccati. Qualcuno però dice che non avergli dato l'aggravante di terrorismo ai notav che sono stati condannati solo per reati minori abbia in qualche modo, no, dato la spinta a qualcuno a dire vabbè, ma insomma allora in Italia se ti becchi solo 2 o 3 anni per una Molotov io la metto. Bah, io non so, io ho sempre sospetto che questi siano sostanzialmente dei figli di papà che non hanno conosciuto nessuna difficoltà vera nella vita e giocano come dei coglioni, scusate. Ecco, vedi, era quella che aveva sulla punta della lingua Paola Saluzzi. Grazie, da un po'. Direttore. E essendo però Paola Saluzzi una signora, l'abbiamo tolta di braccio. Una cavalla genovese. No, come una cavalla. Sei una. Sono distinta più volte, ma sì, mi taccio, facciamo parlare il direttore. Ah, se no, ma sei un maschiaccio tu di quelli. Mannaggia. Ma pericolosa proprio. Ah, di quelle che picchiano, tirano i capelli. Assolutamente, tu dammi uno di questi, anche lì abbiamo trovato dei soggetti interessanti, dammi uno di questi che parlano facendo i razzisti della domenica pomeriggio, vedi come te lo faccio tornare a casa, che vuole andare dalle orsoline dopo. Ecco, ma non perché io sia l'incredibile Hulk, ma tiro dei calci, signori, ma tiro dei calci, sono una calci bellezza. Calci ovviamente dei maroni, giusto, perché ovvio come meritano, codesti. La parte per il tutto li prendi lì nella parte per il tutto famosa. Va bene, no, mi raccomando che oggi devi lavorare, quindi questa tosse la festa dei bambini è un emporio generale di trastulli e zuccherini, come scriveva l'ottimo Guareschi, quindi va bene, niente tosse. Bene, comunque bene. Insomma, vedremo, perché ci sono gli 007 un po' preoccupati, ecco, per questi attentati ai treni, e staremo a vedere. Vabbè, ma io non ci volevo credere, ma anche oggi c'è il Toto Quirinale. Io non vi ho chiesto ancora, ma ve l'avete fatto il Toto Quirinale voi? Perché io lo chiedo a tutti, poi mi dimentico. Ve l'ho chiesto sicuro, Luca Dini, tu cosa, chi pensi che ci sarà? No, non me l'hai chiesto. No, non te l'ho chiesto, attenzione. No. E allora, no. Tu che pensi? Chi pensi? Perché attenzione, tra il 14 e il 16 gennaio Napolitano si dimette, tra il 14 e il 16 gennaio, ormai i rumors così danno questo, così, te lo dico. Ma non è il 15. No, non è tra il 14, no, potrebbe essere anche il 14 o il 16, evidentemente, non lo so. Comunque, insomma, quei 3 giorni sono i 3 famosi 3 giorni del Condor. Orca. E chi ci metteresti? No, chi ci metterei non lo so, ma io penso che Prodi ce la faccia. Sarebbe il suo momento, insomma. Prodi. Sarebbe giusto. Prodi. Ma tu non sei uno di quelli come vedi Calderoli ha proposto Caprotti oppure Vittorio Feltri, di quei nomi un po' così. Ma no. Strampalati. Ma anche no. No, ci vuole un politico, cioè uno comunque che abbia fatto una carriera una carriera. Beh, magari sì, qualcuno che la gente sappia chi è, anche è importante. Sì, sì, sì, sì. C'è da dire che Berlusconi pare abbia detto ai suoi: meglio un comunista che un incapace, sempre meglio che un comunista. Oh, Paola Saluzzi, hai mai visto che Berlusconi ha parlato anche a Repubblica dicendo accetterei anche uno di sinistra? Ma che gli sta succedendo? Sta sparigliando anche i suoi, insomma, voglio dire, perché non... Berlusconi parla correttamente per sé e per le persone che all'interno del suo partito lo stanno seguendo, poi ci sono le ire funeste, no? Sì. Di chi non lo vuole seguire, ma in ogni caso, facendo una deroga all'età che bisogna avere per andare al Quirinale, l'uomo c'è. L'uomo c'è. Alessandro Milan. Ma no! Sì, come dico Luca sempre, Dini, sarebbe super direttore Luca Dini, certo. Ovviamente factotum e come dire segretario generale di tutto il Colle, il Quirinale. E Paola Saluzzi, corazziere. A me, a Francesca e i giardini. I giardini del Quirinale. Guarda, noi che ci occupiamo dei giardini del Quirinale, quindi anche con la possibilità di portare cani, gatti, canarini, sì, e tutta, certo, una serie di cose. E basta. Mariti. L'uomo per il Quirinale. L'uomo c'è. Alessandro, io faccio Milan. Crostini per tutti. E crostini per tutti. Ormai siamo alla follia, quale 6:44. Ma è il 24 dicembre. Ma certo. Prima di parlare un po' di politica, fatela un po' pazziare qui a Radio 24. Paola Saluzzi. Allora, sentite. È il giorno in cui le renne volano. Esatto. Tu potevi parlare di, non lo so, ti presentavi e parlavi di bricolage. Oggi sparigliamo. 24 dicembre si sarebbe potuto parlare di tante altre cose, però essendoci la politica attivissima, credo mai come quest'anno, insomma, no? Perché in altri anni, se non vado errata, erano quasi già tutti in vacanza, anche soprattutto i politici, si parla di politica. Vabbè, così sono costretti anche a venire ospiti. Sono costretti dei Gesù bambini. Vabbè, sentite Crozza sul Presidente della Repubblica, che ha detto Crozza? Un saluto al nostro gufo Giorgio da Roma, che ci lascia, ce ne faremo una ragione. Al suo posto ci sarà un nuovo Presidente della Repubblica, che non è stato scelto col patto del Nazareno, ma verrà deciso con la giuria demoscopica di Sanremo, dal Nazareno a Sanremo. Un nome che potrebbe accontentare tutti è Checco dei Modà. Checco dei Modà, non è male. Checco dei Modà, ancora Crozza. Comunque prometto a tutti cataratte e dentiere. Dentiere, benissimo, voglio darvi un dato sui nostri denti. Un abitante mediamente del nostro territorio ha 32 denti contro i 43 degli immigrati clandestini che vengono qua a ridere con i loro denti bianchi, abbagliando gli automobilisti del nostro territorio, con conseguente aumento del 23% dell'infortunistica stradale e con la distruzione dei nostri guardrail di Ghisa. Non ci ha mai detto niente sul guardrail di Ghisa, no, niente. Vabbè, Crozza, sempre straordinario, Crozza, dai, andiamo a sentire il traffico. 24 mattino. Alessandro Milan è perfetto, deve far chiudere la zanzara. Milan, tutte le mattine mi fai entrare il giramento di coglioni! Queste notizie di ladri! Posso dire, per favore, basta Paola Saluzzi, basta, è penosa. Signor Milan, si denuba ba, perché stamattina che è mercoledì mi faccio proprio una grande felicità a sentire la signora Paola Saluzzi, ancora mi si ammozza. Signore Milan, che te pozzino via fuoco, non c'è più scampo. Questi politici bisogna attaccarli alla radro e portarli giù lo campo a ralo terreno, come un tempo facevano i bovi, no? E a guidare la radro, sai che ci mettiamo Giannino ingazzato con una frusta a 9 code, che gli pozzino via fuoco a tutti quanti quelli, ma per davvero, tanti auguri Milan, a te e alla signora del mercoledì, ciao. Signora del mercoledì, ma l'immagine di Giannino con la frusta a 9 code. a capo dell'aratro con a tirare tutti i politici. Politici. Esatto, i politici. Meraviglioso. Ma che c'aveva quello là? Ma pure il 24 di dicembre non ti mollano. Beh, ma sono problemi suoi, come posso dire? Guardi, chi disprezza compra, lei ha detto signore, ma io so che chi disprezza compra, lo dica, chi disprezza compra. Basta! Ecco. Basta! Ecco, appunto. Basta! Ecco, Oscar Giannino, mentre con la frusta nove code, te lo vedi, Lucadini, no? Che è l'aratro tirato dagli bovi politici. E vabbè, e che devi fare? Ma Luca, ma Vanity Fair dov'è? Cioè, cosa siete in... dov'è? No, era un numero doppio, due settimane. Ho capito, facile però così, no, io tra l'altro apprezzo, vi ringrazio il fatto che vi siate svegliati alle 6.30, Luca Dini, perché così già col grembiule deve fare i crosdini, e Paola Saluzzi perché così poi dopo è già sprintosa per la giornata che la porterà alle 15 in onda, e vabbè, però dobbiamo andare in edicola. E trovare il numero doppio di Vanity, più, ma insomma, voglio dire, perché se lo sono preso tutti quanti, comprare due volte. Esatto, puoi andare a comprare due volte, puoi dire mi ricompro Vanity, ho capito, però così è facile, numero doppio. E quando è che debosciati ritornate a lavorare? Alla Befana. Alla Befana. No, abbiamo preparato un altro numero. Doppio, triplo. No, un altro numero che esce il 30 gennaio. Ecco. E ci vuoi dire che c'è? Che è il classico numero di fine anno? Quello tipo personaggi dell'anno? No, c'è un numero... È sorprendente, posso dire. C'è una copertina sorprendente. Mi dirai se è vero o no. Ah, non puoi anticipare nulla, ovviamente. Non voglio, ma è una bella sorpresa, secondo me. Mannaggia. Paola Saluzzi, adesso che facciamo? È una persona? Aspettiamo. Compro una vocale, è una persona? No. No. Ah, attenzione. No. È un luogo? No. No. È un gatto? No, è un animale. Urca, ma siete terribili. Vabbè, non possiamo. Siamo terribili, non lo so. Mi sa che Paola Saluzzi ci ha azzeccato, ma non possiamo sapere di più. Paola, si è capito questo? Si sta indurendo il direttore. Attendiamo, perché sta preparando i crostini. Parliamone, esatto. Forza. Poi però deve dare la ricetta su Twitter per tutti, Sì, esatto. Farò. Esatto. Ma tu invece, Paola, cucini qualcosa? Allora, per la salute di tutta la mia famiglia, no. Quindi io stasera raggiungo mamma, papà, sorella, cognato, nipotoni, un gruppo vario, e per fortuna abbiamo chi cucina in famiglia, cioè mio cognato che è un master chef vero di casa, e quindi io mi do ad apparecchiare la tavola. Faccio queste cose proprio da donna. Come scriveva giustamente ieri, leggevano la nuova Costituzione pensata da Sermonti, l'altro. Sì, Sermonti. No, i corsi gratuiti di economia domestica perché le donne capiscano che cosa debbano fare nella vita. Tu ti riferisci, credo, a Rutilio Sermonti, 90 e rotti anni, colui che è l'ideologo di questi neofascisti sbaragliati ieri, che è il fratello più grande del più celebre Vittorio Sermonti. Ma ci fermiamo. No, tra l'altro oggi succede questo, che il Corriere intervista lui, Rutilio Sermonti, parla dei suoi deliri fascisti e poi dice: non vedo mio fratello da 7 anni, vorrei riabbracciarlo. Mentre Repubblica intervista Vittorio Sermonti che dice: che spreco, che intelligenza buttata via, non mi fa veramente pena anche solo parlarne. E vabbè, questo succede. Problemi familiari, come diceva Charles Dickens, l'uomo che ha inventato il Natale, che Dio ci benedica tutti quanti. E quindi chiudiamo così, come dire, ecco, che il Natale porti luce, non luce come la intendevano loro. Luce nella testa di gente con la lampadina fulminata. Intanto devo dire il miglior augurio di buone feste è ascoltare la magica rossa alle 6:30 del mattino. Questo dorato. Ci scrive Chris da Parma. Devo invece parlare di un episodio un episodio, ecco, mi ha attaccato la tosse. Allora, Saluzzi, attraverso il telefono, un episodio che mi ha veramente lasciato imbufalire, mi ha fatto imbufalire, mi ha lasciato così scosso, abbastanza scosso. Vi ricordate tutti e sapete chi è Gianluca Pessotto, ex grande campione, calciatore della Juve, che in un momento di buio della sua vita tentò il suicidio, non so se ve lo ricordate, buttandosi giù. Che cosa è successo? Ora lui allena, credo, la Juventus Primavera. In un derby, Juventus-Torino, Primavera, ma non neanche Primavera, credo allievi, 17enni, insomma ragazzi, quindi potete immaginare i genitori. C'è anche un video su internet, il cui audio però si sente un po' male, quindi non lo mandiamo in onda. L'hanno accolto 20 simpaticoni, tifosi, chiamiamoli così, al grido di buttati, ammazzati, buttati giù, vabbè, poi insulti vari, insomma. Io voglio dire, secondo me, io ho assistito anche a alcune partitelle di calcio e ho deciso il mio figlio per il momento non lo iscrivo a nessuna squadra di calcio, perché la vera rovina, gli faccio fare tennis, la vera rovina sono questi genitori, come definirli, Luca Dini? Tu hai un aggettivo che mi può aiutare? Questi, cioè... Ma guarda, sono come i troll, sai, persone veramente, sono vigliacchi, poveretti. Cioè, ma io li ho sentite a genitori di bambini di 7-8 anni, spaccagli la gamba, fagli male, e poi dopo questo è chiaro che sono i germi che poi provocano queste persone, cose qui. Sono persone senza attributi che usano quei tre minuti per cercare di recuperare quello che non sono, cioè uomini. Il problema è questo, cioè, vedere questo video, tra l'altro c'è Pessotto che si avvicina, perché a un certo punto gli dicono gobbo di merda, vabbè, classico insulto volgare magari a quelli della Juve, e lui si avvicina e parla con questi e dire no, gobbo di merda non si dice, cioè lascia perdere tutta la sua vicenda personale, chiaramente, che non doveva trattare attraverso una rete con dei rincoglioniti che gli dicevano buttati di sotto. Paola, guardalo quel video se te lo sei perso, perché lo guarderò con attenzione, come dire, applausi a un uomo che si avvicina e cerca di spiegare. Sì, gli altri sono già persi. Che vuoi spiegare a gente così? Gli altri sono già persi. A proposito di ferrovie, certa gente dovrebbe passare la propria giornata a spaccare le pietre che poi si mettono in mezzo, che servono come ghiaia robusta da mettere tra i binari, no? Cioè, che lavoro fai? Spacco le pietre, che era un lavoro che facevano fare magari a gente che era messa sotto punizione e tutto il resto, allora proprio, cioè, ti estraneo dalla società perché non ne fai parte. Non ne fai parte, e come dici bene tu, Alessandro, poi a nessuno interessano le storie, parlo per me, personali, ma uno dei motivi per cui fu portato via dalla scuola di calcetto un mio nipote fu questo. Spaccagli la gamba. Ma no, certo, ma ragazzi, ma che devi fare? Così, proprio figlio, spaccagli la gamba, prendi il figlio che hai e lo porti via. Ma dici, anche perché poi cosa dici? Cioè, tu puoi insegnare quello che vuoi a tuo figlio, ma se c'hai a fianco 10 persone che dicono spaccagli la gamba, cioè, e ti esce e ti dice sbaglio, ho capito, ma quel bambino di 6-7 anni a un certo punto, come dire, stare in un ambiente del genere, ma per carità, cioè, non è che adesso sto generalizzando, ci sono tantissime società sane, ma sì, che non sono sani certi genitori, appunto di comportamento e di tutto, quindi andate a spaccare le pietre, se vuoi qualcuno mi spacchi la testa. No, perché le società poi sono sane, gli istruttori ci mettono passione, impegno, poi arrivano i genitori, oppure gli pseudo tifosi, ed eccola là, e succede. E comunque buon Natale. Sono i papà, diciamo. Sono i papà, ecco. siamo noi, sono i papà. È una delle prove della superiorità femminile. Eccola là, infatti, no, ma devo dire che la vicenda finisce in prima pagina, la Repubblica l'ha messa anche in prima pagina, questa vicenda di Pessotto, perché è davvero una vergogna incredibile, quegli insulti dei barbari del calcio a Pessotto. Devo dire che purtroppo succede soprattutto nel calcio, non solo, ma soprattutto... Quasi solo. Sì, anche in altri sport, però certo a tennis non è che vanno a giocare a tennis se c'è quello che gli dice una roba del genere. Va bene, ho fatto il mio pippotto. Ricordiamoci sempre, per rimetterci insieme al mondo del calcio e sorridere, ricordiamoci sempre, forza Vesuvio, e al ritorno a Verona lo srotolare delle norme striscione, Giulietta è una zoccola, è meravigliosa. Giulietta, tu sei una zoccola, sì, è sì, quella, sì. Quella è la forza del calcio. Vabbè, noi siamo tra questi punti. Forza Vesuvio, Giulietta è una zoccola. Vabbè, è il momento in cui dedico You Are So Beautiful di Joe Cocker a Paola Saluzzi. Che onore. E in cui vi saluto, il momento in cui vi saluto. Buon anno, buon Natale. Buon Natale, buon anno, mitici del mattino, senza di voi nulla. Che devo dire? A voi. Aspettiamo dunque l'animale. Ma che animale? Vabbè, lasciamo stare la copertina. La copertina. Non dire nulla. Non la dire copertina nulla. Del 30. Sai che animale è? Il sarchiapone. Ecco, ora esatto. Ve lo posso dire. Forse. Anticipo. Che cos'è? È un procione. No, è un procione in copertina di Vanity Fair. Secondo me no. Secondo grazie me. A Luca Dini, per il suo grazie a voi. British, grazie a voi. Buon anno. Buon tutto. Buon anno, buon Natale, buon tutto. You're everything I hope for. You're everything I need. You are so beautiful. 1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Alle 7:18 minuti in punto, siamo in diretta e voi che fate, cari ascoltatori? Ditecelo se siete qua all'ascolto nostro al 349-238-6666. Perché? Perché oggi parleremo ancora del giorno dopo la legge di stabilità, avremo ospite ancora il sottosegretario all'economia Zanetti. Ricordate, è stato nostro ospite 2 giorni fa, quando abbiamo parlato di quella storia di una signora di Padova che dice io evado e non pago più le tasse perché non ce la faccio. Dopo quella puntata, anche sul profilo Facebook, soprattutto del sottosegretario Zanetti, sono apparsi degli insulti vergognosi. E noi oggi lo abbiamo richiamato. Sarà con noi insieme a Sergio Rizzo del Corriere della Sera per parlare anche di questa sanatoria che c'è stata per il gioco d'azzardo, qualcuno dice un regalo al gioco d'azzardo legalizzato, insomma parliamo del dopo legge di stabilità, ma anche di quello che è successo al sottosegretario dopo la nostra puntata 2 giorni fa. Avremo ospite anche Don Antonio Mazzi per parlare un po', è la vigilia di Natale, di questo Papa che detta elenca i 15 mali della curia romana. Questo dalle 8:15, forza, state con noi e leggiamo i giornali. È mercoledì 24 dicembre e praticamente tutti i quotidiani aprono sul boom economico americano, la crescita che davvero accelera, come è il titolo del Sole 24 Ore, accelera la crescita USA, PIL più 5% nel terzo trimestre, l'aumento maggiore dal 2003. Il Corriere della Sera, l'America sorprende il mondo, così è il titolo, Repubblica, l'America spicca al volo, PIL su del 5%, Renzi, basta austerity europea. La Stampa, ripartono gli USA, più 5% di PIL. Il Secolo, il decollo dell'America. Il Giorno, l'America corre, c'è la foto di un Obama appunto in movimento. C'è invece chi sceglie la vicenda dei treni, che vedremo tra pochissimo. Il Fatto Quotidiano, un rogo ferma i treni, sabotaggio e liti di governo. Per il Messaggero, sabotata l'alta velocità e allarme. Il Giornale, le bombe dei bravi ragazzi. E Libero, primi botti, ma non di Natale. E c'è preoccupazione, è inutile negarlo, tra i servizi per quello che è successo. Il titolo del Giornale è il più preoccupato a pagina 3. Gli 007 in OTAV alzeranno il tiro e l'ISIS può colpire anche da noi. Beh, un titolo davvero poco conciliante con la vigilia di Natale, poco rassicurante. Il dato di fatto è che c'è stato questo rogo contro l'alta velocità ieri, fermi 62 treni. Ci sono stati 4 incendi dolosi sulla linea Bologna, trovate scritte NOTAV, e ovviamente il risultato intanto che migliaia di viaggiatori sono bloccati. che c'è molta tensione, che c'è molta paura. Il ministro Lupi parla di attrazione terroristica. Il premier Renzi invece dice non evochiamo parole del passato e parla di sabotaggio. Sta di fatto, come racconta Carlo Bonini a pagina 6 di Repubblica nel retroscena, l'allarme del Viminale, quindi del Ministero dell'Interno, è questo: non si fermeranno qui, fanno il massimo danno con il minimo sforzo. Scrive Bonini: la mano che in una notte di nebbia mette in ginocchio l'alta velocità sembra mettere tutti d'accordo, polizia, carabinieri, servizi, è una faccenda che per tempi, modalità e sequenza le stimmate della campagna di sabotaggio anarco-insurrezionalista da tempo dichiarata in rete. Prima di ieri 5 episodi in 7 mesi, un'epifania il 19 maggio a Lavino di Mezzo in provincia di Bologna, sulla linea di Milano incendiati i pozzetti dei cavi elettrici, quindi 4 attentati nello spazio di 20 giorni di dicembre appena trascorsi. Esattamente a cavallo della sentenza con cui il 18 dicembre scorso la Corte d'Assise di Torino ha condannato a 3 anni, 6 mesi, 4 militanti in OTAV per l'assalto del cantiere di Chiomonte. Piccoli fuochi per un grande rogo che mette a rumore la politica e svela la fragilità intrinseca delle grandi infrastrutture, tra cui, la cui linfa vitale è nel traffico dati, nella loro dimensione digitale ed elettrica, come appunto la rete dell'alta velocità e i suoi oltre 1000 chilometri di cavi che la innervano. E l'allarme del Viminale è questo: non si fermeranno. Purtroppo questo almeno è quello che pensano gli 007 italiani. Maurizio Belpietro alza anche un po' il tiro, il direttore di Libero: occhio a questi botti, gli anni di piombo sono cominciati così. La vicinanza di Natale ricorda tra l'altro l'attentato al Rapido 904. Per fortuna questa bomba non ha causato vittime, ma è un campanello d'allarme. Ovviamente c'è anche molto timore per tutti coloro che devono prendere i treni in questi giorni, ci si sposta molto, come è legittimo. Parla su Repubblica l'ex procuratore di Torino Giancarlo Caselli, colui che ha seguito tante inchieste anche nei confronti dei notavi, intervistato da Vera Schiavazzi a pagina 9, gesti contrari alla democrazia ed è grave che tanti intellettuali minimizzino. Questo ha detto Caselli alla Repubblica. Ma certo c'è molto timore, mentre invece che dire dell'inchiesta dei fascisti che sono stati sgominati all'Aquila, che non solo secondo alcuni volevano colpire, ma secondo Repubblica avevano già colpito. Per esempio, ricordate qualche anno fa una bomba, un'auto esplosa all'ingresso di 2 anni fa al tribunale di Chieti? Ebbene, secondo Repubblica, secondo gli inquirenti, erano proprio questi neofascisti, questi che volevano ricostituire ordine nuovo, avevano già colpito. L'auto esplosa davanti al tribunale di Chieti nel 2013, era proprio opera della banda. La loro firma è anche su altri 4 attentati e nelle intercettazioni il gruppo si proponeva di sparare a 5 politici a caso. Litigavano anche nelle intercettazioni, c'era chi voleva la strage, uccidiamo 100 poliziotti e gli amici dei negri, e chi invece no, giustiziamo solo i politici, e diceva colpiamone 5 a caso. Sta di fatto che il Corriere della Sera e Repubblica si concentrano su una figura e su una famiglia, Rutilio Sermonti, ex di Ordine Nuovo, considerato l'ideologo di questa banda terroristica fascista. Di anni Rutilio Sermonti ne ha 93, è il fratello maggiore del celebre attore e scrittore Vittorio Sermonti, il massimo interprete della Divina Commedia, così è conosciuto per lo più. Ebbene, Fabrizio Caccia del Corriere della Sera va a intervistare Rutilio Sermonti nella sua casa di Ascoli Piceno, 93 anni, colui che ha scritto questa costituzione per questi neofascisti. La notte del 22 dicembre arrivano i carabinieri a casa mia, erano 3, dormivamo, si sono messi a far luce con le torce dicendo aprite, ci dicevano, e io e mia moglie spaventatissimi, neanche per sogno, ora chiamiamo la polizia, solo che la polizia erano proprio loro che stavano bussando alla porta. Comunque, dice Sermonti, mi hanno preso il PC e molto meglio così, lì c'è tutta la verità. Non ho mai sentito parlare di questa avanguardia ordinovista. Io semplicemente ho scritto libri e ci sono molte persone che leggono i miei libri e chissà cosa gli viene in mente. Chi sarebbero i miei adepti? L'ex carabiniere Stefano Manni e sua moglie Marina sarebbero gli ideologi di questo movimento? Ah, li ricordo, sono venuti più volte qui a casa mia. Ma a proposito di Stefano Manni, dice, ma chi? Lui? Ma è un millantatore, il deus ex machina di un'organizzazione fascista. Ma scherziamo, al massimo può essere il deus ex machina del caffè. Così Rutilio Sermonti, che dice, ma sì, al limite ci trovavamo tutti insieme, cantavamo le canzoni fasciste o le canzoni delle SS, waffen, waffen, waffen. Ecco, così questa simpatica combricola, ma non abbiamo mai fatto nulla di male. Parla anche del fratello, Vittorio Sermonti, non ci vediamo da 7 anni, vorrei riabbracciarlo. Solo che dalle colonne di Repubblica, Vittorio Sermonti, intervistato da Caterina Pasolini, dice, tutto questo mi dà dolore e pena. È mio fratello, è accusato di terrorismo, è un'intelligenza sprecata, rimasta ferma agli anni del fascismo e non vorrei proprio doverne parlare. L'ultima volta che ci siamo visti è stato 7 anni fa e la volta prima altri 6 anni fa. Le sue idee politiche non sono mai state un segreto. I rapporti di consuetudine sono spariti da tempo, ma non abbiamo mai veramente litigato. Da giovane lui ha scelto la Repubblica di Salò, io mi sono iscritto al PC, ma sono rimasto un uomo abitato dal dubbio. Era un uomo intelligente, mio fratello, dotato con capacità artistiche, ma purtroppo si è fermato a 24 anni e per altri 70 la sua intelligenza è rimasta immobile. Ecco, questo Vittorio Sermonti su questa vicenda. Che dire, è la vigilia di Natale e quindi ci sono tutte queste storie di Natale. Mentre la stampa ha una controstoria di Natale, se volete, e infatti Alberto Mattioli a pagina 20 la dipinge proprio così. Eccola qui la controstoria di Natale, Torre Boldone. 8.800 abitanti, provincia di Bergamo. Gli affidano una minorenne nigeriana e il sindaco dice non le darò neanche un euro. L'immigrata minorenne arriva sul territorio comunale, non avvisano il sindaco, la affidano ad alcune suore e poi dicono però deve essere pagata dal comune la sua permanenza qui, 65 euro al giorno. Il sindaco dice non le darò un euro. Vede il manifesto? Ci sono la mia faccia e il mio numero di cellulare. Chiunque mi può chiamare. Io sono così ed è un sindaco, scrive la stampa, che ha per esempio ha istituito il VOT, volontario osservatore del territorio. Da quando gli ho fatto i furti sono calati da 119 a 5. È un sindaco che mette questi manifesti. Attenzione, rom con fisarmonica in giro per il paese. Segnalate dove si trova se lo vedete. Grazie, segue il numero del cellulare. Ora però, questa vicenda, arriva questa nigeriana, gestita dalle suore della Onlus Micaela, che aiuta le donne vittime dello sfruttamento. Questo però, dice lui, l'ho scoperto dopo. Mi arriva una comunicazione dell'associazione che mi informava che il Tribunale dei Minori aveva decretato che la sistemazione della minore era a carico del comune e mi chiedono 65 euro al giorno. E questo sindaco dice pantalone non paga più, il bilancio comunale è chiuso, i soldi non ci siamo, non ci sono. E poi diciamolo, con 65 euro si paga una mezza pensione in un buon albergo di Livigno. Ho verificato di persona e quindi nessuno mi ha contattato, nessuno mi ha consultato, nessuno mi ha avvisato, tanto poi si sa qualcuno pagherà. E invece no, pantalone si è stufato. Eccola qui, la controstoria di Natale. Affidano una minorenne nigeriana al sindaco che dice io non le darò un euro. Ma siamo al momento dell'articolo, mani sul volante, l'articolo che ci fa più incazzare di questa giornata. Anche alla vigilia di Natale arrivano i rimborsi fasulli per 2 milioni e 600 mila euro di ex consiglieri regionali del PD della regione Lazio. Tutti sono diventati al momento parlamentari. Si parla di cene con tartufi, spese per la caccia, spese in litri e litri di olio extravergine d'oliva, ostriche, multe, tutto con i fondi regionali del 2010-2012. Lo scrive il Corriere a pagina 24. Sono spese loro, soldi nostri, e intanto tutti costoro che non sono stati per punizione rieletti in Consiglio regionale del Lazio sono ora eletti in Parlamento. Ma signora, ma che fa? Metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, per cortesia. Alessandro Milan, l'anduia dell'informazione. L'anduia? Grande l'anduia, che ti mette un po' di energia, bella pepata, piccante. Allora, siamo qui, sono le 7:33 minuti e continuiamo nella lettura dei giornali. Oggi parleremo appunto di legge di stabilità. Intanto sulle partite IVA c'è stata un po' una retromarcia, eh. Il governo ha approvato una cosa in legge di stabilità e dopo 12 ore Renzi è andato ai microfoni di RTL a dire che sulle partite IVA ci ripensiamo, dobbiamo cambiare le misure. Tra l'altro oggi c'è un Consiglio dei Ministri, si parlerà del decreto ILVA, si parlerà del Jobs Act con i decreti attuativi. Ma comunque il tema delle partite IVA è un tema, guardate anche Mario Sensini, partite IVA, il governo ci ripensa, pagina 6 del Corriere della Sera. Dopo le modifiche al regime dei minimi, il governo prepara il nuovo intervento riparatore a favore dei giovani titolati di partita IVA, i più penalizzati insomma dalla riforma. È sacrosanto un intervento correttivo, mi assumo la responsabilità di fare un provvedimento ad hoc, così ha detto il Presidente del Consiglio. Certo, il Corriere fa notare che fino a ieri Palazzo Chigi e il PD avevano difeso a spada tratta il provvedimento, forse hanno visto questa sorta di rivolta che c'è stata in rete di molti giovani delle partite IVA che hanno detto ma come avete tradito le partite IVA dopo tutte le parole che avete fatto, e evidentemente nel giro di 12 ore dopo aver approvato una legge hanno detto no, adesso ne facciamo una ad hoc per modificare questo. E vabbè, staremo a vedere. Tra l'altro invece il condono dei giochi, quello su cui ieri scriveva Sergio Rizzo sul Corriere della Sera, cioè il condono fa rientrare nella legalità 7.000 sale giochi che erano fuori dall'autorizzazione dei monopoli dello Stato. Che come rientreranno? Rientreranno pagando una quota, una sorta di condono, una sorta di penale, una sorta di una tassa, chiamatela, rientrano nel circuito legale. Lo Stato recupera 2 miliardi di euro così. Queste sale si mettono in regola, è un condonone, un condonino, vedetela come volete, ne parleremo magari anche alle 8:15 di questo, e la legge di stabilità è servita anche a questo. Mentre oggi appunto c'è importante il Consiglio dei Ministri alle 10, quindi tra un paio di ore abbondanti, sul Jobs Act. Oggi Davide Colombo e Claudio Tucci sul Sole 24 Ore, pagina 5, raccontano le novità in arrivo. L'indennizzo monetario crescente con l'anzianità di servizio del lavoratore sarà la regola in tutti i casi di licenziamento per motivo economico e organizzativo. L'indennizzo base potrebbe partire da 1,52 mensilità per anno di servizio e arrivare a un massimo di 24 mensilità. È confermata la conciliazione standard, qui le tutele crescenti partirebbero da una mensilità per anno di servizio fino a un massimo di 16 mensilità e un minimo di 2. Non ci sarebbero più importi maggiorati per le grandi aziende sopra i 200 dipendenti. Comunque i tecnici di Palazzo Chigi del Ministero del Lavoro hanno lavorato fino a ieri sera tardi per mettere a punto il decreto con le nuove regole sul contratto a tutele crescenti per i neoassunti che oggi verrà esaminato nel Consiglio dei Ministri. Alcune anticipazioni le trovate oggi, tutte le novità, certo poi per due giorni i giornali non saranno in edicola, ma oggi al Consiglio dei Ministri e le vedremo poi nei dettagli, l'analisi tra tre giorni sui giornali. E mentre noi un po' arranchiamo, l'economia in difficoltà, l'economia che non riparte, la legge di stabilità che penalizza alcuni, le partite IVA che si lamentano, ci siamo svegliati, abbiamo scoperto che l'America, come faceva con la vecchia pubblicità, va va vuma! E il PIL americano ai massimi da 11 anni, l'economia nel terzo trimestre è cresciuta con un tasso annualizzato del 5%. Marco Valsani, a pagina 3 del Sole 24 Ore, racconta come i motori dell'economia americana rullino, come non avevano più fatto da 11 anni, dal terzo trimestre del 2003. La crescita accelera al passo al 5% tra luglio e settembre. Sospinta da cosa? Consumi in ripresa, investimenti aziendali che si moltiplicano e quindi si polverizzano sia le precedenti e già solide stime del 3,9 che le previsioni del 4,3%. Invece cresce del 5% il PIL. Oh, viva l'America! Prima ho twittato, ma scherzando, insomma, Renzi dice: vedete che si può fare, emigrate. No, nel senso, è una battuta ovviamente, però Renzi dice: vedete che si può fare se mettiamo un freno anche all'austerity dell'Unione Europea, con le politiche espansive si può ritornare a una crescita. E l'America speriamo che dia in qualche modo il là a una crescita anche europea e nello specifico italiana. Qui in Italia invece siamo sempre a combattere con che cosa? Con i dettagli dell'inchiesta di cosiddetta mafia capitale che emergono sempre più potenti sulle pagine dei giornali. Oggi le novità sono, per quel che riguarda l'inchiesta, tuo figlio lo assumo io, ecco qui i favori di Odeven all'uomo del Viminale, i legami con il capo dipartimento del Viminale Morcone, prefetto Morcone, per il business dei migranti, a lui posso chiedere tutto. Questo è su Repubblica. Federica Angeli e Daniele Autieri raccontano di come ci sarebbe stata una sorta di scambio, uno stage per il figlio nella sua fondazione in cambio di una struttura da gestire a Castelnuovo di Porto, località alle porte di Roma, dove sistemare centinaia di immigrati. Una sorta di baratto per portare a Dama l'ennesimo flusso di immigrati. E questo baratto sarebbe venuto tra il prefetto Mario Morcone, vertice del Dipartimento Libertà Civili e Migrazione del Viminale, dunque al Ministero dell'Interno, e Luca Odeven, l'uomo a libro paga del clan di Carminati, gli dicevano gli do 5.000 euro al mese, da ex vice capo di gabinetto della Giunta Veltroni al Coordinamento Nazionale sull'Accoglienza per i Richiedenti Asilo. Questo sarebbe, lo scambio, almeno secondo gli inquirenti. Intanto su questa vicenda, come racconta il Fatto Quotidiano, Cantone ha iniziato a bloccare, a commissariare i primi contratti. I primi due contratti, nello specifico, che erano stati dati a società del Consorzio Nazionale Servizi e della cooperativa Edera, sono stati commissariati. Prova Roma a rialzarsi dalla voragine etica spalancata dall'inchiesta Mafia Capitale, così racconta Tommaso Rodano sul Fatto Quotidiano. Il presidente dell'autorità anticorruzione Cantone ha messo nel mirino le prime due aziende che avrebbero ottenuto appalti illeciti, e sono appunto queste due: Consorzio Nazionale Servizi e Cooperativa Edera. Sono nella galassia attorno a cui orbitava la figura di Salvatore Buzzi, avevano messo le mani su attività preziose e remunerative nel campo della raccolta dei rifiuti romani. Ora hanno 15 giorni di tempo per inviare a Cantone la memoria difensiva, poi il presidente dell'ANAC potrà chiedere il commissariamento al prefetto di Roma Pecoraro, che avrà l'ultima parola su tutto. Questo per quel che riguarda la inchiesta Mafia Capitale. Prima abbiamo parlato dei rischi terrorismo, soprattutto per quel che riguarda, se volete, sabotaggio, chiamatelo come volete, la questione dell'alta velocità. Terrorismo invece è il timore, questo è il timore che metteva il giornale, anche che l'ISIS, lo Stato Islamico, possa colpire in qualche modo in Italia. C'è su tutti i giornali, soprattutto tedeschi, ma viene riportato anche dai giornali italiani, uno straordinario reportage che ha fatto un reporter. Si chiama Jürgen Todenhofer, ha 74 anni, e grazie a un salvacondotto del califfato dell'ISIS è stato l'unico giornalista che ha potuto trascorrere alcuni giorni, testimoniato anche con foto, con i militanti appunto dello Stato Islamico, senza essere rapito, senza essere catturato. Io, 6 giorni con l'ISIS a Mosul. l'Occidente non sa cosa rischia. Questo è il titolo, per esempio, della Stampa a pagina 15. È l'unico giornalista occidentale ad aver trascorso 10 giorni, 6 di questi a Mosul, nei giganteschi territori ormai più grandi del Regno Unito, controllati dall'ISIS tra Iraq e Siria. Del suo incredibile viaggio ha tratto 7 lezioni che racconterà nel suo prossimo libro, ma anticipato da alcuni giornali. La prima lezione è questa: l'Occidente sta sottovalutando in maniera preoccupante l'ISIS, descritto come uno tsunami nucleare, che sta pianificando la più grande pulizia religiosa della storia. Paghiamo il prezzo per l'inconcepibile follia di George W. Bush. Questa è la visione politica di Todenhofer. L'Occidente non ha idea dei rischi che affronta. Come altri stati totalitari, dice questo giornalista, il califfato si considera uno stato a tutti gli effetti, soprattutto nell'ambito della sicurezza, scuola, assistenza sociale, anche se molto di ciò che loro considerano tale è molto lontano dal mio modo di vedere e dalla cultura occidentale. L'obiettivo, oltre alla pulizia religiosa che risparmierebbe solo ebrei e cristiani e punterebbe ad assassinare o ridurre in schiavitù sciiti, yazidi, atei e politeisti, è la conquista del Medio Oriente e del mondo. Ecco, questo è l'allarme lanciato da questo giornalista Jürgen Todenhofer. Todenhofer ha vissuto qualche giorno con i militanti dell'ISIS e questo, se vogliamo, lo possiamo sottovalutare. Mentre invece ci sono novità sui Marò. Ieri i giornali anticipavano che Renzi aveva pronto un piano italiano. Qualcuno parlava di scuse da porre all'India. Il piano c'è, i dettagli però non si conoscono e non vengono divulgati. Napolitano vede Renzi una soluzione sui Marò prima delle dimissioni. Ieri Renzi ha detto che c'è un piano, però ha anche aggiunto: ora è il tempo di tacere. Tutto quello che dobbiamo dire lo abbiamo già detto, è il momento di non aprire più la bocca su questa vicenda, ma Renzi ha fatto capire che dal 22 febbraio 2013 si potrebbe essere vicino alla soluzione. C'è un piano italiano, l'unica cosa, visto che è tacere, è sperare che questa vicenda possa in qualche modo finire. This is George Clooney and I also like listening to 24 Mattino. Hi George, e passa un buon Natale anche te, eh? Allora, vi è mancato il chiacchiericcio della politica? Vi è mancato? Perché io lo so che un po' vi è mancato. E allora eccomi qua, vi accontento. Ci sono le solite paginate sulla corsa al Quirinale, ormai è il prossimo obiettivo. D'altronde, come scrive il Fatto Quotidiano, al titolo a pagina 4, ormai è deciso. Re Giorgio, cioè Napolitano, lascerà il Colle tra il 14 e il 16 di gennaio. O 14, o 15, o 16. Neanche un giorno in più per aspettare il sì all'Italicum. Io non ci volevo credere, ma oggi, anche alla vigilia di Natale, c'era una pagina di Repubblica, c'è una pagina di Repubblica dedicata totalmente al cosa sta succedendo sull'Italicum, la legge elettorale. Basta, verrebbe da dire basta. Io lo dico con questo tono ormai sconsolato, Giannino sarebbe un po' più cattivo, eh? Basta, ecco, appunto. E allora, comunque, Giorgio Napolitano lascerà il Colle tra il 14 e il 16 gennaio. Allora, che succede? Ci sono tutti i retroscena. Le riforme sono a rischio ingorgo e vabbè, rispunta che cosa? Oggi sui giornali, nel Toto Quirinale, sale un pochino Padoan, il ministro all'economia, la strategia, secondo Tommaso Labate, a pagina 13, un'intera pagina fitta del Corriere della Sera, è questa. La strategia è quella di mettere Padoan al Colle e Lorenzo Bini Smaghi, ministro dell'economia. Secondo l'Abate, che cosa fa presumere che questa possa essere una mossa? Di recente, se ricordate, circolava il nome di Veronica De Romanis tra i possibili componenti della squadra economica di consiglieri di Matteo Renzi. Poi, improvvisamente, Veronica De Romanis è scomparsa. Ma come? Non è più stata... allora il giallo si è infittito a questo punto. Come mai Veronica De Romanis non è più stata messa nel novero dei consiglieri economici di Matteo Renzi al Ministero dell'Economia? Perché dovete sapere che Veronica De Romanis è la moglie di Lorenzo Bini Smaghi, racconta il Corriere. E allora la strategia potrebbe essere questa: Renzi vede lungo, Renzi vede lontano. Si vuole giocare la carta Padoan al Quirinale e vuole giocarsi la carta Lorenzo Bini Smaghi a sostituire Padoan all'economia. E allora non sarebbe opportuno che la moglie di Lorenzo Bini Smaghi lavori allo stesso ministero dove arriverà poi forse il suo futuro marito. Ecco che la non nomina di Veronica De Romanis fa articolare tutto un retroscena, appunto, che vuol dire che forse è questa la strategia: Padoan al Quirinale, Lorenzo Bini Smaghi all'economia. Staremo a vedere. Intanto, anche per il Messaggero, Marco Conti a pagina 9 rispunta l'ipotesi Padoan tra dubbi e veti incrociati. Mentre Berlusconi ha fatto la cena coi suoi deputati, eccetera, coi suoi amici, e ha detto: pare, secondo il Corriere, meglio eletto un comunista che un incapace. Insomma, Berlusconi che sta aprendo direttamente a Renzi su questa vicenda. Vabbè, se volete c'è anche il Movimento 5 Stelle che si dà un decalogo, vale a dire uno statuto. Questo è stato obbligato per la legge del governo Letta sul finanziamento pubblico ai partiti. Ogni partito deve darsi uno statuto, e quindi Grillo, che ha sempre vissuto il suo movimento come un movimento non politico e quindi un non statuto, ha dovuto mettere uno statuto, e tutti allora a vedere che cosa c'è in questo statuto. Il decalogo per non essere espulsi, c'è anche il ricorso in appello. Vabbè, insomma, dettagli di politica che trovate sui giornali. Voglio invece allargare un po' gli orizzonti. Vabbè, in Francia c'è molto panico. Panico con l'esercito per le strade dopo i tanti attentati, dopo i tanti incidenti molto strani di persone che con i furgoncini si buttano. Sono tre attacchi del genere. Si buttano nella folla, hanno anche ferito in maniera grave alcune persone. Allora c'è molta paura per il Natale, c'è una molta paura per l'emulazione di questi gesti, e la Francia vive ovviamente nel terrore, come scrive a pagina 18 Repubblica, questo Natale. Mentre se volete una bella storia di Natale, oggi sui giornali ce ne sono tanti articoli di questo genere, racconti di Natale. Beh, vi voglio segnalare questa. È una bella pagina che ci riporta indietro negli anni. Paolo Rastelli sul Corriere della Sera, pagina 21. È il miracolo del 25 dicembre 1914, esattamente 100 anni fa, quando ci fu per una notte il silenzio delle armi. Potete immaginare il periodo della Grande Guerra, della Prima Guerra Mondiale. Ma per quel giorno di Natale, tedeschi e inglesi non più nemici per una notte. Paolo Rastelli racconta: fu un'iniziativa storica presa dal basso dai soldati in trincea che il 25 dicembre di 100 anni fa uscirono spontaneamente allo scoperto in alcune zone del fronte occidentale per andare a salutare e fare gli auguri ai nemici, senza che ci fosse da parte dei comandi alcun via libera. Anzi, proprio il contrario. Quando la notizia si diffuse grazie alle lettere dei soldati, i vertici militari di entrambi i contendenti, inglesi e tedeschi, si affrettarono a proibire iniziative simili. Il generale Horace Smith Dorrien, comandante del secondo corpo d'armata della forza di spedizione britannica, minacciò la corte marziale per chi si fosse reso colpevole di fraternizzare con il nemico. Eppure questo successo per una notte, grazie al Natale. Il miracolo del Natale 1914, di due avversari che dimenticano l'odio per unirsi in un abbraccio fraterno. rimase quasi un fatto isolato, ma raccontiamolo, scrive il Corriere. Come andarono veramente le cose? Beh, facciamolo raccontare chi ne fu testimone diretto. Il caporale Leon Harris, 13° battaglione del London Regiment, in una lettera scritta ai genitori. «È stato il Natale più meraviglioso che io abbia mai passato», scrive questo soldato. «Eravamo in trincea la vigilia di Natale e alle 8:30 di sera il fuoco era quasi cessato. Poi i tedeschi hanno cominciato a urlarci gli auguri di Buon Natale e a mettere sui parapetti delle trincee un sacco di alberi di Natale con centinaia di candele. Alcuni dei nostri si sono incontrati con loro a metà strada e gli ufficiali hanno concordato una tregua fino alla mezzanotte di Natale. Invece poi la tregua è andata avanti fino alla mezzanotte del 26, siamo usciti dai ricoveri, ci siamo incontrati coi tedeschi nella terra di nessuno, ci siamo scambiati souvenir, bottoni, tabacco, sigarette e parecchi di loro parlavano inglesi. Grandi falò sono rimasti accesi la notte, abbiamo cantato le canzoni, è stato un momento meraviglioso, il tempo era splendido, sia la vigilia che il giorno di Natale, freddo, con le notti brillanti per la luna e le stelle. Beh, davvero si può dire il miracolo di Natale, è passato alla storia così nella grande guerra, raccontato oggi sul Corriere della Sera, è una bella pagina che vi segnalo. Pagina 21. Certo, lo stesso Paolo Rastelli racconta non tutto andò bene. Alcuni militari che si erano sporti dai parapetti pensando alla tregua di Natale furono subito uccisi sul posto. Però è una bella storia di 100 anni fa. Bella storia anche per Bernardo Caprotti, Libero giustamente dedica una pagina a una vicenda che può sembrare marginale, ma che non lo è. Bernardo Caprotti, che è il patron di Esselunga, è riuscito dopo 13 anni ad avere l'autorizzazione ad aprire un Esselunga a Livorno, Livorno la Rossa, Livorno città delle cooperative. E sapete che Caprotti con le coop ce l'ha a morte, ha scritto anche un libro. Caprotti abbatte il muro rosso di Livorno. Questo muro l'ha evocato lo stesso Nogarin, sindaco di Livorno, a dire: abbiamo abbattuto il muro. La tenacia di Esselunga, la meglio sullo ostruzionismo delle coop. Dopo 13 anni, via libera al supermercato che darà lavoro a 200 persone. Questo pagina 7 di Libero. Va bene. Invece non è un buon Natale, pare, per coloro che sono macchiati, secondo la procura di Reggio Emilia, no, di Bologna, dell'avere speso soldi nostri quando erano nella regione Emilia-Romagna. Non è un buon Natale perché la procura ha congelato 1.200.000 euro tra proprietà e indennità pagate a 8 capigruppo della regione, sequestrate case e indennità ai politici per le spese pazze in Emilia-Romagna. Pagina 12 della Stampa. E anche sul Giorno: spese pazze in Emilia, scatta il blitz, sequestrati beni agli ex capigruppo. E vabbè, succede. Una buona notizia per tutte le donne all'ascolto. Donne, arriva l'auto che si guida da sola. Avete risolto il 30% dei vostri problemi. Dai, non odiatemi. È la vigilia di Natale. Il secolo XIX racconta con Paolo Manzo l'ultimo rivoluzionario progetto della sezione X di Google. A posto per due soli passeggeri è il regalo del futuro, l'auto che si guida da sola. Dal 2015 si potrà provare in California, boom di acquisti da parte dei mariti alle mogli. E vabbè, il secolo la mette così. Siamo in chiusura? Sì, siamo in chiusura. Siamo qui, dai, con grande affetto e con un grande abbraccio. Do l'ultimo premio della carta costa dell'anno 2014. Cioè l'articolo più inutile scovato sui giornali oggi, a Selvaggia Lucarelli, amica nostra Selvaggia Lucarelli, che in prima pagina di Libero scrive l'articolo: la donna più sexy del mondo, secondo la rivista People, è Kate Upton, spacciata da alcuni per chiattona. Ma chi se ne frega? Quattro mattino. Siamo qui. qui, sono le 8:17 minuti, siamo in diretta alla vigilia di Natale, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, si potrebbe esordire così, della serie ci siamo sbagliati, e cioè 12 ore o neanche 12 ore dopo l'approvazione della legge di stabilità il governo fa una parziale retromarcia, comunque una sorta di mea culpa. Ieri, dopo che la legge ha approvato delle modifiche fortemente peggiorative per le partite IVA, soprattutto i giovani che si sono lamentati, i giovani professionisti, ecco che Renzi è andato a RTL a dire questo. Per chi ha già una partita IVA non cambia. Il punto vero è che non possiamo, secondo me, non inserire nei prossimi mesi un provvedimento ad hoc su quel mondo lì dei giovani professionisti, che è quello che ha meno vantaggi di tutti da questa stabilità. Bisogna avere più attenzione per questi ragazzi, per le giovani partite IVA. Giustamente, bisogna avere più attenzione per questi ragazzi e per le giovani partite IVA. Ho capito, però lo dice Renzi, come dire, bisogna avere più attenzione. 12 ore prima il suo governo ha approvato questa legge di stabilità, quindi chi deve avere più attenzione? Però adesso ci sarà un provvedimento ad hoc. Ma in questa legge di stabilità abbiamo scoperto anche ieri dal Corriere della Sera che c'è una sorta di sanatoria per il gioco d'azzardo legalizzato, perché ci sono 7.000 sale scommesse, 7.000 circa, che erano fuori, non avevano la concessione da parte dei monopoli, che verranno in qualche modo regolarizzate con una sorta di condono, cioè potranno pagare una quota entro la fine del gennaio 2015 e rientrare nel circuito legale, e quindi nel circuito delle concessioni, mettersi a posto con una sorta di così di sanatoria, no? E questo per recuperare dei soldi da parte del fisco, così come il grande favore al super enalotto. Di questo ha scritto Sergio Rizzo sul Corriere ieri. Sergio Rizzo, che è con noi, buongiorno Sergio. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ti ringrazio ed eccoci qua, e voglio salutare anche il sottosegretario all'economia Enrico Zanetti, che torna ai nostri microfoni. Buongiorno sottosegretario, eccoci. Buongiorno. Sottosegretario che tra l'altro è stato protagonista due giorni fa, ricordatevi, una puntata, lo vogliamo dire sottosegretario, a me dispiace, nel senso che ci sono state, so, dopo la puntata che ha fatto due giorni fa con quella signora che tatua, attrice di Padova, che dice: io da un anno e mezzo non pago più le tasse, perché tra scegliere se dare il latte a mia figlia e andare avanti o pagare le tasse, ho deciso di dare il latte a mia figlia. Che è successo? Che qualche, come definirlo, qualche idiota sulla sua pagina Facebook ha postato qualche messaggio di quelli un po', come dire, da idioti, ecco, tipo, lo dico io, spero che al sottosegretario venga il cancro. Sottosegretario, vabbè, dai. Cose che capitano, purtroppo è chiaro, quando c'è esasperazione poi si eccede. D'altro canto io ribadisco che le regole bisogna rispettarle e lottare per cambiarle, altrimenti si finisce nel far west, perché c'è chi giustamente dice: preferisco non pagare le tasse. Allora c'è chi dirà: allora io occupo abusivamente le abitazioni, io faccio la spesa proletaria, ciascuno fa il suo, perché se il bisogno giustifica il non rispetto delle regole della convivenza civile, poi il passaggio successivo è quello. Però volentieri parlerei del problema, ad esempio, delle partite IVA, se c'è tempo. Certo, no, ma ne parliamo subito, infatti archiviamo infatti questa cosa. Io vorrei partire da qui, perché proprio lei ricordava ieri Dario Di Vico sul Corriere, a Ballarò di recente aveva detto: non toccate le partite IVA, cioè i minimi, non, perché non danneggiamo i giovani. Ma scusi, e si è fatto. E poi dopo 12 ore Renzi dice: no, dobbiamo avere più attenzione alle giovani partite IVA e quindi faremo un provvedimento ad hoc. Ma questa maionese impazzita, sottosegretario, da dove viene? Ma non è una maionese impazzita, purtroppo sono le dinamiche spesso convulse di leggi di stabilità, dove c'è dentro tantissimo. Comunque, cioè, io francamente dal primo giorno ho sottolineato a tutti i miei colleghi di governo che si stava facendo un provvedimento squilibrato, ottimo anche troppo per certi versi, a favore di artigiani e commercianti che hanno assolutamente bisogno di entrare nei regimi fiscali che prima non potevano utilizzare, ma veniva fatto addirittura penalizzando appunto il mondo dei freelance, i lavoratori della conoscenza. E questo equilibrio era assolutamente insostenibile, mettere 850 milioni, perché questo abbiamo fatto, e anziché prenderci l'applauso, prenderci delle più che motivate lamentele, devo dire che era un'operazione eccezionale in termini di cattiva gestione delle risorse. Ma e quindi come mai è stata fatta? E poi soprattutto perché altri hanno ritenuto, invece il governo è composto da tante persone, giustamente sì, ognuno dice la sua, altri, i miei colleghi, hanno ritenuto che invece fosse un provvedimento giusto da portare avanti. Vedo che alla fine anche il premier Renzi... Però scusi, siete in tre nel governo, il PD, NCD e Scelta Civica, di cui fa parte lei. Lei era contrario, il PD... Contrarissimo, se Renzi, se Renzi mi data, se tanto mi dà tanto, dice bisogna fare un provvedimento ad hoc, chi è? NCD che l'ha voluto? No, il partito suo principalmente, era, insomma, cioè, il PD. Fuori da ogni dubbio, è stato sostenuto principalmente da componenti del governo di quella parte, ma è tutto legittimo, cioè un provvedimento, sì, io lo dico con chiarezza, che dà delle cose anche positive, perché ripeto, ad esempio per artigiani e commercianti ci sono molte cose ottime, solo era stato scritto in modo squilibrato e proprio penalizza soprattutto, ripeto, freelance e liberi professionisti. Io pensavo fin dall'inizio che era opportuno fare un provvedimento in cui si faceva fare qualche passettino avanti in meno ad artigiani e commercianti e si evitava di fare passi indietro agli altri. Vabbè, però si può ancora fare. Infatti Renzi ha detto farà il provvedimento ad hoc. Meglio tardi che mai. Sergio Rizzo, vabbè, succede anche questo. Nelle leggi di stabilità sappiamo, almeno non c'è stato, pare, quell'assalto alla diligenza, anche se ci sono dei provvedimenti. Ieri abbiamo parlato dei 10 milioni per il porto di Molfetta, avevamo il sindaco di Molfetta che ha detto ma io questi 10 milioni non li ho mai chiesti, però li accetto volentieri. Pare che sia stato l'ex sindaco di Molfetta, oggi senatore Azzollini, a spingere su questo. Però Sergio, tu hai parlato invece cosa lo dobbiamo definire, un condono questo per le sale giochi che non erano nelle concessioni? Dunque, intanto io farei una premessa, cioè che queste leggi di stabilità sono niente meno che assolutamente identiche alle vecchie leggi finanziarie, dove il ping pong tra la Camera e il Senato poi alla fine produceva una quantità impressionante, no, di interventi che nessuno sapeva poi da dove venivano, spesso e volentieri. Io ricordo un provvedimento tanti anni fa dove a un certo punto saltò fuori che l'IVA per il cioccolato era diversa dall'IVA per la vaniglia, per cui se uno andava al bar e chiedeva un gelato di vaniglia e cioccolato aveva due costi diversi. due costi di IVA diversi. Quindi questo qui, diciamo, purtroppo bisogna prendere atto che non è cambiato assolutamente nulla dagli anni in cui c'era il famoso, come l'ha chiamato, l'assalto alla diligenza. Assalto alla diligenza, no? Esatto. Ecco. E il fatto che il governo abbia presentato al Senato qualcosa come 90 emendamenti la dice lunga anche su, diciamo, la chiarezza che c'è nell'esecutivo su certi, diciamo, su certi temi, no? Uno di questi appunto è quello delle partite IVA che avete appena ricordato, ma l'altro è quello dei giochi. Cioè, io dico, perché non ci hanno pensato prima a questa cosa? No, cioè le 7.000 sale, dici? Le 7.000 sale. Come è stato possibile che in Italia si sia determinata una situazione così assurda per cui ci sono 7.400 sale scommesse legali e 7.000 illegali? Sì. Cioè fuori senza la concessione dei monopoli, però lavoravano normalmente. Certo, ma in virtù del fatto che c'è stato un ricorso, uno o più ricorsi alla Corte di Giustizia Europea sui provvedimenti originali delle concessioni, per cui la stessa Corte di Giustizia ha ritenuto che fossero state emanate delle norme discriminatorie nei confronti di alcuni operatori e quindi questi operatori che si sono sentiti discriminati al punto da far ricorso, poi hanno ritenuto assolutamente legittimo aprire delle sale senza avere la concessione. Sì. Tutto questo tollerato dallo Stato. E non solo, sanato, cioè adesso pagheranno una quota e si metteranno in regola. Un po' questa è la classica soluzione italiana. Ma tutto questo poi ci fa fare una riflessione sul gioco d'azzardo. Ma perché un paese il cui, diciamo, stato, il cui governo, no, ritiene di diventare il biscazziere per far quadrare i conti, francamente mi fa venire qualche dubbio, no? Sulla... questo è un tema, se si vuole, economico e anche etico, sul quale, non so, vorrei il parere del sottosegretario Zanetti. Effettivamente questo fa abbastanza arrabbiare, cioè la sensazione è che lo Stato consideri il gioco d'azzardo come una cassa, un qualcosa su cui si possono recuperare dei soldi, poi dopo dice però si nascono le malattie come la ludopatia e vanno curate, giustamente, insomma non è che si possono abbandonare i cittadini così. Però sottosegretario, come la mettiamo? Come è avvenuta questa storia del gioco d'azzardo? No, questa storia lo ricordava già adesso Venerizzo, che è sempre molto informato sui fatti, cioè piano col dire sanatoria, condono e via dicendo. Questa è una storia che è nata proprio perché la legislazione italiana sui giochi cerca di essere più restrittiva, a cominciare proprio dai regimi concessori, di quelle che invece sono sostanzialmente sul punto le direttive di stampo comunitario. Ecco che quindi tutta una serie di soggetti che pur non avevano avuto le concessioni, perché appunto il nostro regime concessorio è molto più restrittivo, attraverso la normativa europea, ricevendo anche ragione in sede giudiziaria, hanno ritenuto comunque di poter, a questo punto si è deciso piuttosto di adattare la nostra normativa in un modo da sanare questa situazione, altrimenti ci trovavamo nel paradosso davvero di avere il male di una proliferazione eccessiva dei punti di gioco, senza neanche il bene di poter almeno incassare. Però sottosegretario, mi scusi, non è un po' come il messaggio del faccio un paragone magari forte, costruisco una casa abusiva, tanto so, sono un po' fuori dalle regole, intanto io me la costruisco, poi tanto so che in qualche modo no, c'è una parziale copertura, però invece purtroppo che deriva dalla normativa europea. Questo è il problema, cioè questo è il problema, non era abusivo puro, perché altrimenti no, è chiaro, questo sì, una soluzione di carattere diverso. No, infatti ho detto il paragone è forte, però la sensazione, non so, Sergio Rizzo mi pare di capire anche dal tuo articolo di ieri, è che intanto in Italia dice vabbè, io forte della normativa europea apro, poi dopo in qualche modo in Italia allo Stato fa comodo perché pago una quota e quindi tirano su dei soldi per il fisco e io mi regolarizzo. Sì, ma sono 7.000, cioè voglio dire, sono tante, certo, quante quelle legali, voglio dire, allora c'è anche un problema, come dire, di rispetto delle regole, no? D'accordo che la normativa europea è più lassista, quello che vogliamo, e che questi hanno fatto ricorso, cioè, però io mi domando, ma come cioè, in un altro paese, ma sarebbe possibile una cosa del genere? Cioè, non andrebbero i carabinieri, la polizia subito a chiudere quei punti illegali? E però per la normativa europea erano legali, questo è l'inghippo. Però non hanno la concessione. Effettivamente, cioè, così. Non hanno la concessione, cioè non sono autorizzati ad operare. Questi hanno aperto, c'è della gente che va lì a scommettere, non pagano le tasse perché tra l'altro c'è anche un'evasione molto ragguardevole, no? Non so su quanti centinaia di milioni l'anno, e questa cosa avviene nella più assoluta, come dire, tolleranza, ma attenzione, non è una tolleranza voluta, è una tolleranza giustificata anche dal fatto che abbiamo delle noi stessi al nostro interno delle procedure giudiziarie che sono talmente complicate, complesse, che poi non si riesce proprio a intervenire. Ma sì, infatti, è il punto vero. Io una cosa non l'ho capita, sottosegretario, non avendo le concessioni, queste sale hanno fatto soldi in nero? Cioè, mi faccia capire, non versavano le tasse fino a questo momento? Situazione perversa per la quale questi soggetti sicuramente operavano appunto al di fuori di una piena regolarità anche in termini di rapporto con l'erario. Questo è il senso di questo provvedimento, cioè appurato. Che purtroppo, ci piaccia o no, la normativa europea fa sponda a questi soggetti, ci piaccia o no, hanno avuto soddisfazione dalla Corte di Giustizia europea, e quindi purtroppo la legislazione europea, come sapete, è in molti termini cogente anche rispetto alle legislazioni nazionali, sì, laddove anche le legislazioni nazionali non vi si adeguano. A questo punto, francamente, è intanto la cosa migliore è fare in modo che questi soggetti intanto paghino il dovuto all'erario e contribuiscano quindi alle casse pubbliche. Poi anche in sede europea cercheremo senz'altro di fare in modo che si tenga presente che dal nostro punto di vista, sì, dal punto di vista dell'Italia, del nostro governo, lo gioco d'azzardo. Ma qui la sensazione è che forse in Germania non avrebbero permesso, come dice Sergio Rizzo, nonostante la Germania sia Europa come lo siamo noi, forse non avrebbero permesso che una normativa europea imponesse di aprire 7.000 sale, tante quante quelle legali, 7.000 fuori dalla concessione perché l'Europa lo consente. Forse in Germania avrebbero detto vabbè, noi non lo consentiamo, però non lo so. Luca da Padova ci ha chiamato su questo tema. Luca, buongiorno. Buongiorno Luca Rampin. Sì. Senta, io un po' sorrido. Un paio di mesi fa ho affrontato la questione del regime dei minimi perché avevo, sì, letto sui giornali una notizia, contattando un parlamentare del 5 Stelle che fa parte della Commissione Lavoro, che è una, sì, mia amica. E mi spiegava che la questione è venuta fuori, non si sapeva neanche per quale motivo. Ho fatto fare una simulazione dalla mia consulente del lavoro e ho mandato questa simulazione alla parlamentare. Ora, è chiaro che il problema, almeno dal mio punto di vista, per come erano note le cose 2 mesi fa, non era oscuro, il problema era notissimo. Ma infatti guardi, il sottosegretario per esempio ci dice che lui aveva lanciato l'allarme di non fate quello che poi purtroppo per lui hanno fatto. E purtroppo... Poi manca la logica dell'annuncio, capisce? Il problema è che se non si crea il magnifico che riesce a risolvere tutti i problemi, lei addirittura ci vede il complotto, come dire che Renzi ha voluto questa cosa perché adesso dice adesso faccio il provvedimento ad hoc. Non lo so, vabbè, qui non entriamo nelle dietrologie, però sottosegretario, che cosa vuol dire il provvedimento ad hoc annunciato da Renzi secondo lei? Cosa bisogna fare adesso per le partite IVA, per rimediare? Ma guardi, secondo me per rimediare l'ideale sarebbe intervenire nei nuovi decreti attuativi della legge delega, facendo un provvedimento che è a costo zero, rimodulando le 850 milioni che sono stati messi sul piatto, rinunciando a fare l'intervento anche previdenziale sul lato artigiani e commercianti, che comunque hanno il vantaggio di entrare in un regime fiscale semplificato, e recuperando così le risorse per riportare la parte professionisti e freelance con una soglia di fatturato fino a 30.000 e un'aliquota anziché del 15 per tutti tra il 10 e il 12. Questi sono i conti che io ho fatto il giorno dopo il Consiglio dei Ministri, quindi, che ha approvato la norma iniziale. Peccato esserci trovati a fare questi ragionamenti il giorno dopo l'approvazione del testo finale. Eh sì, esatto. Però lei dice meglio tardi che mai. Non ho niente da dire. Non ho niente da dire. Sergio Rizzo, invece, sul tema dei giochi c'è anche l'altra questione del Super Enalotto. Siccome nel Super Enalotto si gioca poco, perché gli altri giochi sono più vantaggiosi, si vince di più, che cosa hanno studiato lor signori? Ma hanno studiato un sistema per cui consentono di rimodulare il livello delle vincite, e questo per favorire una ripresa del gioco. Ecco. Però il punto qual è? Il punto è che la Ragioneria Generale dello Stato, che è sempre molto attenta al tema delle coperture, come vediamo tutte le volte fa le pulci a questo o quel provvedimento che secondo loro non potrebbe provocare dei problemi di copertura, questa volta hanno allargato le braccia e hanno detto: ma siccome è talmente aleatoria questa possibilità di ripresa, noi diciamo che in questo caso non c'è il problema della copertura, perché semmai ci sarà un miglioramento. Sì, ho capito, ma ci potrebbe essere anche un peggioramento, no? Ti viene il sospetto che lì ci sia oggettivamente una questione che riguarda il destinatario di quella norma lì, no? Però un sospetto che ti viene sempre quando vedi delle norme che riguardano una situazione in particolare. Sì, io non lo so, ma sui giochi però oggettivamente forse bisognerebbe fare una riflessione un pochino più approfondita, no? Perché anche questa storia qua per esempio anche la Sisal, no? È una società, per carità, perfettamente in regola, tutto quello che vogliamo, ma ha una sede che sta in Lussemburgo, no? Allora, sono tutte queste società, la gran parte di queste aziende che fanno i giochi in Italia, sono tutte basate all'estero, sono tutte basate in Irlanda, piuttosto che a Malta. Con regimi fiscali più vantaggiosi. Ho capito, ma sono concessionari pubblici. Perché un concessionario pubblico deve avere una sede basata all'estero per pagare meno tasse o per avere una... non si capisce questa cosa. Cioè, e avere una concessione pubblica. Ma la ragione per cui nasce quella sanatoria di cui parliamo è proprio questa, il fatto che la normativa italiana originaria, no, era considerata discriminatoria nei confronti di società basate all'estero. Ma anche questa è una cosa molto curiosa, secondo me, no? Perché i concessionari di giochi sono tutti estrovestiti? Per quale motivo? So, sottosegretario, vogliamo, lei ha una risposta, detto che è tutto in regola, voglio dire, si può appunto andare all'estero, no, però non c'è dubbio, hanno concessioni comunitarie, no? Hanno concessioni pubbliche in Italia, poi, sottosegretario. Le società poi hanno diritto ovviamente di collocarsi, sì, da parte nostra, massima fermezza nei controlli rispetto ad eventuali illusioni fiscali, però le società è chiaro che non è che possiamo obbligare. Adesso sì, il fatto che abbiano una concessione in Italia, però fa sì, dire. Però attenzione, proprio perché attenzione che tendenzialmente il problema, come veniva ricordato, è sorto perché la nostra legislazione è considerata dall'Europa non allineata per le società estere, quindi vuol dire che tendenzialmente quelle società che operavano con una concessione non adeguata alla nostra normativa nazionale sono appunto società che erano collocate all'estero e senza concessione, non già con concessione. Quindi poi è giustissima la riflessione che è stata fatta, però adesso non mischiamo nemmeno troppe cose insieme che poi ci perdiamo. Allora facciamo così, passate un buon Natale, intanto vi ringrazio, il sottosegretario Zanetti è ancora con noi, Sergio Rizzo, voglio ricordare di Sergio Rizzo perché sta andando benissimo questo libro Da qui all'eternità, l'Italia dei privilegi a vita, edito da Feltrinelli, magari se qualcuno non ha ancora fatto il regalo di Natale è un ottimo regalo all'ultimo giorno. Grazie Sergio Rizzo, a presto. Ovviamente dopo la pubblicità sarà con noi Don Antonio Mazzi, il mitico Don Mazzi della comunità Exodus, a chiacchierare un po', siamo pur sempre alla vigilia di Natale, che ha detto il Papa, ha detto delle cose importanti sui mali della curia romana. 24 Eccoci, mattino. Siamo qui alle 8:41 minuti, sono molto felice di avere qui ai nostri microfoni la vigilia di Natale, fare due chiacchiere con uno dei pochi interisti che abbraccerei volentieri, Don Antonio Mazzi. Don Antonio. Ciao. Come ciao, stai? Ciao. Tutto bene? Sto bene, sì, ha fatto salva l'Inter. Lasciamo stare l'Inter. Che fai con la tua comunità Exodus la vigilia di Natale? Dove celebri messa intanto? Beh, dai, alle 11 vado della messa in galleria nella galleria della stazione, sì, stazione centrale, con i miei disperati, e facciamo la messa, cantiamo, mangiano qualcosa, siamo in festa, ecco. Alle 11 di questa mattina, alle 11 di questa notte invece sono con i miei ragazzi in comunità a fare la notte cosiddetta santa. La notte santa. Anche i miei non sono molto abituati alle notti sante, sono abituati a qualche altra notte, capito? Vabbè. Quindi insieme con loro faremo, coi genitori, faremo arrivare a Gesù Bambino. Oggi è la notte santa per tutti. Sì. Don Antonio, ma c'è un Natale più degli altri che ricordi con affetto di tutta la tua vita? Quello proprio che non scorderai mai? Ma sai, il Natale che non scorderò mai fu la prima volta che facemmo la messa di Natale a mezzanotte in stazione centrale. È stato negli anni 85-86, quando la stazione centrale adesso è un paradiso rispetto a allora. Forse non ci crederete, ma allora era veramente un disastro. E io mi ricorderò due fatti che sono passati di lì alcuni politici, tra cui era ancora vivo Craxi e Pelliteri. E poi mi ricordo che con fratello Ettore, allora vivo, sì, abbiamo fatto un giro della stazione alle 3 della notte e mi sono incontrato con una ragazza che era tutta piena, tutta ammaccata, che voleva 50.000 lire allora per prendersi qualcosa. E purtroppo io ho sempre detto ai ragazzi miei, mai dare una lira, questa notte, quella notte lì non me la sono sentita. Dato, purtroppo due giorni dopo l'ho trovato sul giornale, morta. Ecco, questo non è certamente bello. Poi va bene, ricordo tanti Natali molto belli, ricordo un Natale che un papà dopo 15 anni si è riconciliato col suo figlio in comunità la notte di Natale, ecco, ci sono cose belle. Sai, Natale ha un po' tutto, ha il dramma e la festa, capito? È tutto, Natale. Alla dolcezza, alla tristezza. Natale è tutto. Due giorni fa ho sentito Don Mazzi, Don Antonio, ti ho sentito in TV a dire questo Papa sta facendo, ma è ancora, potrebbe fare... Hai sentito i 15 mali della Chiesa? La mossa dell'altro ieri, io credo che bisogna andare indietro 4 secoli per sentire un Papa che dice robe così della sua curia. Sì. Quindi deve essere uno, il Vaticano dentro lì, non so cosa ci sia. Secondo il coraggio di questo Papa, ragazzi, questo santo subito, capito? Ma sul serio. Perché questa è una mossa proprio. Ci sono i cardinali. Ci sono i cardinali che cosa facevano, secondo te? Tremavano? No? Ah, tremavano. Se avessero un minimo di coscienza i cardinali, ma io dubito che alcuni cardinali lì abbiano coscienza. Se avessero un po' di coscienza, prenderebbero una borsa e un paio di sandali e andrebbero forse in missione a fare finalmente qualcosa di bello e di evangelico. Ma sì. Tutti? Sì. No, non tutti. Ma no, tutti no, ma buona parte sì. Buona parte. Per esempio c'è una parte... Quando c'è troppa ricchezza, guarda, la Chiesa con la ricchezza, ma adesso parlo a Radio 24, sì. Ma c'è modo a modo di usare la ricchezza. Ma i preti non sono fatti per usare la ricchezza. La ricchezza la deve usare chi, la ricchezza, insomma il potere, eccetera, la deve usare chi è capace di usarlo bene. Insomma la Chiesa con la ricchezza... Anche i laici lo usano poco bene, ma la Chiesa non ha mai usato bene i soldi, mai. E ogni volta che sono arrivati i soldi è arrivata l'eclissi della Chiesa. Visto che hai parlato di soldi, noi abbiamo scelto proprio un passaggio del Papa, Papa Francesco, quello che secondo me ha fatto un po' suo fischiare le orecchie a qualcuno, sentiamolo. Quando l'Apostolo cerca di colmare un vuoto esistenziale nel suo cuore accumulando beni materiali, non per necessità, ma solo per sentirsi al sicuro. In realtà nulla di materiale potremo portare con noi perché il sudario non ha tasche. I nostri traslochi sono un segno di questa malattia. I traslochi, Don Antonio. Non farmi parlare perché è Natale, va bene, no? I traslochi. Non provocarmi, ma quando ho sentito quella parola lì mi si è aperto il cuore, capito? Perché pensavi anche tu al Cardinal Bertone, dai, perché pensavo di essere solo io, capito? Ma quando sono in compagnia del Papa è per la miseria. Per carità, questo è uno dei passaggi, ma ancora una volta veramente lo strapotere e la strafottenza di alcuni personaggi lì dentro al Vaticano veramente vergognosa, col Vangelo non ha niente a che fare. E la lotta più grande di questo Papa non sarà convertire il mondo, ma sarà convertire la gente che è dentro al Vaticano. Ma ci riuscirà? Se rimanda fuori, rimanda a fare i preti tra i poveri, secondo me ci riuscirà. Ma come fa a dire a un cardinale? Ma lo farà. Chi è che pensava che arrivasse un Papa così? Chi è che pensava? Ma perfino Enzo Bianchi ieri un commento sulla stampa dice porca loco, ma una roba così, dice, non l'ho mai sentita, un coraggio così. Una roba, capito? Che può andare, quel discorso lì può andare vicino alle dimissioni del Papa, al ritiro di Papa Ranzi. Perché un discorso così in Vaticano, io credo che bisogna andare ai tempi di San Bernardo, di Sant'Ambrogio. Ma infatti oggi Vittorio Messori sul Corriere dice che secondo lui qualche cardinale di quelli che l'ha eletto Papa forse si è pentito. Che dici? Sì, ma si è pentito il giorno dopo, secondo me. Sì, quando ha capito che Papa era. Si è pentito ma se ne fregano, chi non ha coscienza, non se ne frega, capito? Il pentimento ce l'ha chi ha coscienza, o no? Chi ha coscienza, vabbè. Questo sì. Vabbè, Don Antonio, noi ci dobbiamo salutare. Rimani sempre della tua opinione sull'Expo, che speri che venga allagata. Guarda, Don Antonio ha detto questa cosa: siccome la sua comunità Exodus è rimasta allagata quando hai esondato l'Ambro, ha detto: spero che succeda anche all'Expo. Così ci facciamo ridere da tutto il mondo. Vabbè, ma dai, una cosa dovrebbe essere una cosa bella l'Expo se funziona bene. E invece è bella, no. Sì, ma com'è possibile che Milano per un riagnolo di 5 metri non riesca a sistemarlo. Un rigagnolo di 5 metri, sono spiegato? Sì, e quindi tu speri che almeno se c'è questo danno per tutti con l'Expo facciamo una figuraccia mondiale e va bene. No, speriamo di risolverlo. Era una provocazione, sì, non era un augurio. Certo. Poi sai, quando uno è un po'... Guarda, quando ho visto per la seconda volta in 3 giorni allagata la mia comunità, mi è venuta una roba che dico faccio l'infarto un'altra volta. Perché casa mia, io vivo lì, con i ragazzi da 30 anni, io non ho casa, ho una cameretta di 3x4, io con loro, mi sono spiegato? Certo. Va bene, comunque dai. Senti, anche Gesù è nato in una grotta e ha rovesciato il mondo. Quindi domani si può farlo. A chi ha bisogno dei, per concludere, i maggiori auguri di Natale della politica, secondo te? I maggiori auguri proprio che questo Natale lo fortifichi, lo tempri? Bah, senti, intanto Renzi deve avere il coraggio di andare avanti e di non lavorare da solo. Il caro Renzi, che io conosco quando era scout, va bene, non deve lavorare da solo, deve crearsi attorno un'equipe che sia all'altezza di questo momento, va bene? Questo è l'augurio che faccio. Bene, allora buon Natale Don Antonio, grazie. Ciao, grazie. Essere stato con noi Don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus in tutto il mondo e oltre che a Milano ovviamente. Buon Natale a lui e il traffico 24 mattino. Allora, sono le 8:52 minuti, cari ascoltatori, sono gli ultimi minuti di 24 mattino per quel che mi riguarda di questo 2014, poi è la vigilia di Natale, poi ci risentiremo l'8 di gennaio, tutto comunque va avanti, il mondo va avanti, magari va avanti anche meglio, ci sarà la rassegna stampa, ci sarà Irene Zerbini dalle 8:15 alle 9, questo durante le ferie di Natale, le feste di Natale. Lorenzo Nespoli andrà in vacanza, l'alpino Peter Bescapè andrà per montagne e vabbè, poi l'8 gennaio saremo tutti qua. Intanto è il vostro momento, come sapete. Tanto voglio fare questo appello, scriveteci se ci ascoltate dall'estero, 24mattino @radio24.it, ci scrivete una bella mail, dite io vi ascolto tutti i giorni dall'estero come stiamo facendo da giorni, invitando uno di voi o una di voi, scoprendo italiani straordinari. Abbiamo avuto anche uno dall'Angola, un cittadino angolano che ci ascolta tutti i giorni. Ma oggi... Siamo Italia! Siete pronti? Ve la ricordate Madonna nel suo primo concerto? Siete pronti? Ho dovuto spiegare a quel giovincello di Lorenzo Nespoli che era Madonna al primo concerto in Italia. Mamma mia, siete pronti? Poi dice anche siete caldi? Anch'io! Oggi voglio salutare Giovanni, buongiorno, ciao Giovanni, dove sei? Ciao Alessandro, ti chiamo da Liverpool. Da Liverpool, oh, grande Liverpool, quello del 3-3 Istanbul, Milan, Liverpool ai rigori. Purtroppo per me sì, ma 2 anni dopo gli abbiamo reso la pariglia. Che ci fai a Liverpool, Giovanni? Vivo qui dal 2007, in realtà ho girato l'Inghilterra da quando mi sono trasferito per studi e adesso sono un consulente energetico, aiuto aziende a diminuire il loro consumo energetico e implementare energie rinnovabili. E come mai l'Inghilterra è una buona base per questo tipo di lavoro? Sì, è ottima, in realtà qui la legislazione favorisce l'efficienza energetica e insomma spinge le aziende a diventare più competitive. In questo modo. E quindi è una buona soluzione. Come sta Balotelli? Lo sai che l'ho visto poco di recente. No, pensavo mi stessi dicendo sai che l'ho visto poco fa a comprare. No. No, devo dire Balotelli lì a Liverpool, so che ci sono dei problemi, però insomma lo sopporta. Che dice la stampa di Balotelli? Un po' come in Italia diranno. Lo sai che non seguo moltissimo il calcio, a dire la verità. Ma lui è un personaggio di politica italiana. Sì, va al di là del calcio, vabbè. Ti occupi più di politica italiana? Certo, mi interessa moltissimo. E la segui come? Un po' ascoltando noi, immagino. Ma i giornali, la tua rassegna stampa, talk show, Crozza, insomma, tutto quello che fate a casa faccio anch'io. Dimmi la maggiore differenza che c'è tra la politica italiana e la politica lì in Inghilterra, in Gran Bretagna. La credibilità e la serietà. Qui se non si mantengono le promesse i politici non vengono più rieletti e per un minimo scandalo i politici si dimettono dalle loro cariche. Il fact-checking in Italia. Qua in Italia invece no. Però ho sentito che ci sono, per esempio, dei grandi scandali di recente su politici del passato. Addirittura si è parlato di un'inchiesta di pedofilia occultata. Cioè succedono anche lì delle cose. Esatto. Qui la giustizia fa il suo corso anche quando una persona ha lasciato questa vita terrena, diciamo. Ci sono state persone che sono state giudicate colpevoli dopo essere morte, e giustizia è stata fatta anche per loro, nonostante siano passate vie. Quindi c'è una serietà di fondo, maggiore serietà, vedi, soprattutto sulle cose che si dicono faremo e poi o vengono non fatte oppure invece in Italia no, è questo. Ma di dove sei tu in Italia? Io sono di Battipaglia, in provincia di Salerno. E torni spesso? Tornavo più spesso prima, adesso sono con una ragazza inglese, Kim, e quindi facciamo il Natale qui in Inghilterra una volta e l'anno successivo in Italia, quindi torno un po' meno spesso, però sì, sono in Italia praticamente ogni anno. Che cosa ti colpisce quando torni in Italia? Magari anche in positivo, perché non diciamo sempre le cose negative, c'è un qualcosa che ti fa comunque essere orgoglioso di essere sempre italiano? Sì, è la forza di volontà dei giovani come quelli di Battipaglia, che nonostante tutte le difficoltà continuano ad andare avanti e a differenza mia non si arrendono e continuano a stare lì a casa a cercare di migliorare le cose. Questa è una cosa positiva dell'Italia. Quindi il coraggio, ma la forza di crederci sempre, la cosa sì, che crederci sì. sempre. E la cosa più brutta invece è che tu che vivi in un mondo così moderno, così aperto, così internazionale, così globale, cosa invece critichi nel nostro paese? Critico il fatto che, non parlo in maniera personale, però l'Italia ha abbandonato molti dei suoi figli migliori. Io mi sento abbandonato dal paese perché nonostante avessi tutte le potenzialità per fare bene lì, il paese non mi ha voluto e mi ha costretto ad andare via per cercare una vita normale, tra virgolette, in un altro paese. E questa è una cosa che è veramente grave, perché molte persone con tantissimo talento sono costrette ad andare via. E tu dici, avrei preferito fare tutto ciò nel mio paese d'origine. Esatto. Io tornerei domani se il paese mi volesse. Questo. E porterei Kim con me. Questo prima glielo devi chiedere e devi ricevere un sì, caro Giovanni. Lei lo farebbe. Intanto ti mandiamo un grosso abbraccio, ovviamente. Buon Natale. Che si fa lì? Si festeggia il 24, il 25? Che si mangia? Si mangia lo schifo? Non si mangia lo schifo? No. Anche a Natale? No. No, si mangia il tacchino, ma... Alessandro, grazie per aver chiamato, tanti auguri di Natale a te e a tutti gli italiani che sono all'estero, e anche a Giuseppe Cruciani, così lo faccio incazzare. Grande Giuseppe Cruciani, tanto non lavora, lui è già in ferie, però gli mandiamo gli auguri, glielo tagliamo e glielo mandiamo. Da Giovanni, da Liverpool, fino a Giuseppe Cruciani, evviva, ci scrive anche il nostro amico Remo, da cui abbiamo iniziato, cuoco alla dig, dicendo che stamattina alla dig, Seychelles, piovigina! Piovigina, Remo, non è sempre sole quello che luccica anche alla dig, ma sta facendo polenta stinco di maiale con patate e filetti di pesce. E vabbè, auguri anche a te, auguri a tutti al 2015.